Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi ci occupiamo delle mamme in attesa. In linea con noi abbiamo il professor Enrico Ferrazzi, direttore della clinica ostetrica Mangiagalli, Policlinico Università di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, sono molto contenta che lei sia con noi oggi perché vogliamo rispondere a tante domande, a tutti i nostri dubbi, un po' di apprensioni. Che cosa succede se una donna in attesa è positiva al tampone, quindi al coronavirus? Allora, i dati ormai sono importanti e ci consentono anche di dire delle cose, come dire, condivise a livello internazionale. Proprio l'altro ieri sono uscite anche le linee guida del Royal College inglese di ostetrici e ginecologia, che sono molto simili a quelle prodotte dalla società italiana. Quindi quello che noi sappiamo di sottofondo è che da una parte le donne si contagiano come gli uomini, però la gravità della malattia tendenzialmente è maggiore negli uomini rispetto alle donne, e in gravidanza la gravità è ancora minore. Diciamo, in gravidanza per ora non sono segnalati casi critici, sono tutte forme simili influenzali di grado lieve o medio. Quindi dal punto di vista della gravità della malattia, diciamo, la gravidanza, per qualche ragione che ancora non comprendiamo, non è grave, a differenza dell'influenza H1N1, che invece è un'influenza grave in gravidanza, per cui raccorda tutte la vaccinazione per l'influenza da fare ancora. Ecco che lei richiama la vaccinazione, però sappiamo che in Italia rimane molto basso il tasso di vaccinazione purtroppo, contro le influenze stagionali. Purtroppo. Anche penso che in tutto il paese si segnalano ancora ricoveri in rianimazione di donne in gravidanza, ma per influenza H1N1, non per questo virus. Ecco, nonostante la gravidanza sia un fattore di rischio maggiore proprio per l'influenza, al contrario di quanto lo sia lo stato attuale per il Covid-19, è corretto, professore? È corretto. Quindi proprio le parole che usano i colleghi inglesi sono simili alle nostre. Le forme respiratorie da Covid-19 in gravidanza sono lievi, medie o addirittura decorrono quasi asintomatiche. Detto ciò, l'epidemia da coronavirus non va assolutamente sottovalutata. No, certo, perché naturalmente un conto è la regola, cioè su 1000 casi 998 sono così. Il fatto che però bisogna, a maggior ragione se si è in gravidanza, mettere in atto tutte le misure previste dalle autorità sanitarie, questo di fatto però va ben memorizzato. Quindi se siete in gravidanza state a casa, come raccomandato a tutti. Se siete in gravidanza non fate venire la zia, lo zio, il nipotino, l'amico a trovarvi a casa, ancora per qualche settimana, e leggete dei bei libri, guardate dei bei film o delle belle serial su dove volete, ma evitate quei contatti che possono comunque portare a voi questo virus, che, ripeto, potete con serenità dire vabbè, non sarà nulla di grave, però è meglio non averlo. Sicuramente è meglio adottare tutte le precauzioni del caso. Naturalmente il compagno, il papà del bambino, bisogna a un certo punto torna dall'ufficio, bisogna, se magari non sta facendo lo smart working, perché molte aziende si stanno organizzando per il lavoro agile, ma alcune professioni, ad esempio, può capitare di avere come marito un medico e di essere in gravidanza. Che fare? Allora le misure... Non posso fargli il bagno nella mucchina, annegarlo nella mucchina, sembrerebbe brutto, no professore? Che cosa si può fare anche per in qualche modo cautelarsi dal marito che rientra a casa, o magari dai bambini, degli altri, che si hanno anche, si può affrontare una gravidanza quando si hanno già dei figli più piccoli, certo, o un adolescente. Andiamo in famiglia. Allora, andiamo in famiglia e cominciamo col marito, che è più facile. Allora, il marito rientra e si lava le mani come prima cosa, prima di toccare qualunque cosa in casa. Si lava le mani, quindi occorrerebbe avere sul mobiletto in anticamera o comunque dove c'è l'entrata un gel antisettico o antivirale o la mucchina, o si va al lavandino, ci si lava le mani per almeno 20 secondi o 30 secondi, e sono tanti se li contiamo, se si lava bene le mani, e questa è la via di trasmissione più frequente, perché il virus, questo virus vive sulle superfici molto più a lungo del virus dell'influenza, 2-3 giorni, quindi uno può essere super prudente, ma poi tocca una maniglia che è stata toccata da una persona che ci ha lasciato delle goccioline di saliva con il virus e lo porta a casa. Quindi lavarsi le mani è la cosa fondamentale. Semplice ma efficace. Se il marito è un medico, forse la mascherina in casa non sarebbe sconsigliabile. Usa e getta. Le mascherine bisogna fare delle annotazioni, perché sono di tutti i tipi, ci sono persino le mascherine di Louis Vuitton, ecco, lasciamo perdere quelle, ma parliamo delle mascherine normali. Si parla di mascherine chirurgiche usa e getta, non quelle colorate strane con i filtri eccetera, perché ogni volta che la si indossa va gettata, togliendola dall'orecchio verso in avanti, senza toccare la superficie, va buttata via, perché altrimenti la mascherina diventa essa stessa una superficie a rischio. Sì, c'era stato un post anche dell'OMS su questo. Vanno, ecco. Le mascherine diventano efficaci se sono usa e getta e si usano bene. Uno se le mette e non la tocca, perché poi la tocca con la mano e poi si tocca magari l'occhiale, ecco, l'occhio si mette a posto. Non devono passare le dita sotto la mascherina oppure riutilizzarla. Ecco. La mascherina, quindi le più economiche, di tipo chirurgico semplice, usa e getta. E il lavaggio delle mani. E limitare al massimo, ma oggi ce lo dice anche il decreto in cui viviamo, cioè si sta a casa. Una nota, se si va a fare la spesa, forse esagero, però sarebbe bene usare due sacchetti, il sacchetto esterno prima di entrare in casa lo si toglie, ok? E quindi si usa il sacchetto interno che non è stato appoggiato sulle superfici del supermercato. E se fosse possibile le confezioni chiuse le si sciacqua in una mucchina o si aprono con i guanti e poi si buttano via i guanti e si mette il contenuto in frigorifero senza toccare le superfici. Sono, come dire, piccole cose a cui dobbiamo un po' abituarci, perché questo virus è, per fortuna, non è cattivo con la gravidanza, ma si trasmette molto facilmente e quindi bisogna essere molto attenti e prudenti a seguire queste piccole raccomandazioni. Quindi anche attenzione quando si fa la spesa, oltre a mantenere la distanza di sicurezza, lei professore suggerisce di avere queste precauzioni. Se parliamo di superfici, le superfici sono anche i pacchetti della verdura, della frutta messe sul supermercato dal commesso che carica i scaffali. Quindi togliamo magari con dei guanti, apriamo la confezione, deponiamo la frutta, la verdura oppure il frigorifero ed eliminiamo il contenitore. Esattamente sì. Per quanto riguarda invece no, perché ci sono delle attenzioni che se facciamo un pochino più di attenzione forse riduciamo ancora un po' di più. Perché ho visto delle persone per strada, entrano magari a prendere un caffè, cosa che è ancora legittimo, che stanno si tolgono la mascherina con le mani e se la mettono in tasca, poi se la rimettono dopo essere sul banco del caffè, è inutile, allora meglio non metterla. Bene ad aiutarci a visualizzare delle situazioni, perché noi ci stiamo tutti un po' misurando con questa nuova vita, comportamenti da abbandonare, altri da in qualche modo imparare e seguire. Professore, se in famiglia ci sono bambini piccoli e adolescenti, attenzione e precauzione della mamma in attesa? Dunque, le distanze di sicurezza sono impossibili. Gli adolescenti sono un problema, perché naturalmente vivere in casa senza uscire è difficile spiegarlo. E però è chiaro che un conto è il parco, dove si va magari a giocare a pallone, un conto è il ritrovo, che a questo punto sono stati chiusi, quindi bisogna spiegare che c'è un pericolo che può essere anche per loro, chiaramente, ma si diventa un pericolo per la mamma, per il fratellino, per il papà, quindi se loro non si comportano in maniera adeguata, quando tornano a casa e ci portano a casa il regalo non voluto, certo, la mamma, il papà o il nonno o la nonna ne possono soffrire anche quindi molto. Quindi responsabilizzarli con proprio bambini al piccoli, bambini piccoli, piccoli, che sono in casa, sono accuditi dalla mamma, coccolati, quello non è un problema. Ecco, il problema è quando si incomincia ad avere voglia di muovere le gambe. Sì, di indipendenza. Professor Ferrazzi, nei trimestri di gravidanza, il primo e l'ultimo sono i più delicati. C'è un maggior rischio per le donne che contraggono il coronavirus? Passa la placenta. Ecco. Questo virus non passa alla placenta e non passa neanche nel latte. E quindi, ripeto, questo virus ha dei gancetti che si attaccano alle cellule del polmone, perché il coronavirus è il virus del raffreddore, del banalissimo raffreddore. Questo è un coronavirus mutato, che si è messo dei gancetti che sono in grado di attaccarsi anche alle cellule del polmone, non soltanto del naso e della gola. Quindi per fortuna, per qualche ragione, questi gancetti funzionano meno nelle donne, funzionano molto meno nelle donne in gravidanza e non si attaccano alla placenta e non si attaccano alle cellule dei dotti galattofori. Quindi poi ogni donna, ogni ospedale se avrà delle sue procedure a cui rivolgersi, perché ormai sono condivise nel mondo, certo, nel modo di fare, quindi quando si arriva in ospedale per partorire ci sono delle istruzioni particolari, diciamo che ogni regione ha messo delle reti. Esattamente. Sì, certo. Professore, il parto di una donna affetta da coronavirus può avvenire anche per via vaginale? Assolutamente sì. Anzi, è consigliato? È consigliato, sì. Non ci sono evidenze che ci siano il virus nei secreti vaginali, quindi anche per quanto riguarda se siete a casa assieme, siete una coppia, non abbiate problemi di trasmettere perché decidete di fare l'amore, questo ecco, non è proprio una perché via di trasmissione. Bravo, proprio lì professore, volevo arrivare a chiudere questa nostra chiacchierata. Questi giorni meno social, si può provare di fare più figli, si può portare a casa più bambini, ecco, più affetto, potrebbe essere bene tra le coppie e più bambini, potrebbe essere un effetto del coronavirus, che riempiamo qualche culla? Chi lo sa? Speriamo, dai, auguriamocelo. Però auguriamo l'amore ai tempi del coronavirus. Professor Ferrazzi, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buonissima giornata. Grazie. Buona giornata, grazie. Un abbraccio a tutti, grazie. E per oggi è tutto. Vi aspetto come sempre a mezzogiorno. Una buona giornata da Nicoletta.